Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, la neve è stato un po' l'argomento di questi ultimi 10 giorni, un po' ovunque, perfino Milano coperta di neve, ma soprattutto in montagna ormai dagli ultimi giorni dell'anno la neve è caduta veramente abbondante e c'è stata una corsa anche alla montagna, ma anche chi non va a sciare, diciamo anche dove vive, sicuramente è stato circondato dalla neve. Noi vogliamo cogliere questo argomento dal punto di vista, se vogliamo, gastronomico e anche vinicolo, andare a scoprire un po' cosa si mangia nei posti di montagna, appunto nei posti dove la neve cade molto alta. Vorremmo scoprire anche un po' i vini di montagna, una viticoltura molto ma molto difficile di cui si parla ben poco. Bene, però vogliamo cominciare questa giornata, questo programma, questa nostra ora partendo un po' da come si deve mangiare quando fa molto freddo e c'è molta neve. Allora ci faremo accompagnare su questo argomento da il nostro dietologo e nutrizionista, il medico Sculati, Michele Sculati. Buongiorno Sculati. Il quale ci segue spesso su queste nostre trasmissioni e ci dà consigli molto importanti. E allora, Sculati, cosa c'è una dieta particolare, ma non dieta dimagranti, una dieta da tenere quando fa molto freddo, quando c'è molta neve? Perché si dice che quando c'è molto freddo si può anche mangiare di più. Allora, possiamo bere un bicchiere di più? Possiamo mangiarci magari 2 fette di cotechino? Dunque, innanzitutto è vero quello che hai detto, cioè che nel momento in cui la temperatura si abbassa la spesa energetica per il nostro metabolismo è maggiore, si chiama termogenesi, la voce di questa spesa energetica, e diciamo che nel momento in cui passiamo la giornata all'esterno, perché certo se fuori fa freddo ma passiamo la giornata in casa questo non ha alcun senso, ma se siamo a sciare o se andiamo a camminare o se stiamo anche semplicemente in centro, possiamo avere un aumento di circa il 10-20% della nostra spesa energetica quotidiana, che si traduce in 100-200 calorie, fino a 300, ecco, solo imputabili al sbalzo termico. Poi, per quanto riguarda invece quello che possiamo mangiare, non ci sono tanto delle caratteristiche tecniche della dieta che cambiano, ma cambia un pochettino la nostra voglia di mangiare alcuni tipi di cibo più densamente energetici, un pochettino più sapidi, eccetera, di cui sicuramente parleremo durante la trasmissione. Per chi ha intenzione di così passare la giornata sulle piste da sci, questo sicuramente cambia tutta quanta la nostra distribuzione normale dell'alimentazione, perché spesso si salta il pranzo, o se non altro si tende a mangiarlo un pochettino più leggero, e quindi ben vengono delle colazioni un pochettino più abbondanti, anche se troppo frequentemente, soprattutto negli alberghi, vengono proposti salumi di qualità diciamo non sempre così elevata come lo sono i nostri salumi tradizionali italiani. Quindi possiamo mangiare qualcosina in più a colazione, a pranzo dovremmo stare un pochettino più leggeri e quindi fare o un monopiatto oppure un panino con un paio di frutti. E su questi monopiatti si possono vedere delle ricette tradizionali come i pizzoccheri, i canederli. Nel momento in cui stiamo sciando sicuramente li bruceremo, e poi magari concentrare un pochettino di più a cena i nostri sfizi edonistici. Bene, io ricordo numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire dando anche consigli oppure segnalando dei posti appunto di montagna, rifugio ed altro, messaggi sms 349 238 6666. Bene, ti faccio un'ultima domanda però veloce, perché poi capirai perché c'è una persona in linea. Ma il vino, si può bere un bicchiere di vino in più? Ma dunque, diciamo che subito che sulle piste il mio suggerimento è di non bere, visto anche tutti gli incidenti che ci sono stati, eccetera, è sempre meglio avere le idee ben chiare. Per quanto riguarda invece le persone la cena, che abbiamo detto possiamo incrementarla un pochettino, o le persone che invece semplicemente lavorano, eccetera, beh, allora sì, direi che un bicchiere in più per l'uomo, di solito si dà il suggerimento di un paio di bicchieri di vino per l'uomo al giorno o un bicchiere per la donna. Beh, nel momento in cui trascorriamo la giornata all'aria aperta possiamo tranquillamente aumentarlo di un bicchiere a testa. Bene. Comunque rendo noto e pubblico che la sera del 31, quindi alle 2 di notte del primo di gennaio, sono stato fermato dalla polizia stradale e mi hanno fatto il test dell'etilometro. Ero negativo. Ci tengo a dirlo, perché sicuramente ho fatto molto, ma molto importante. Poi magari lo commenteremo ancora. Sentiamo Celestino dalla provincia di Latina. Pronto? Sì, buongiorno Celestino. Sì, buongiorno a lei, dottore. Intanto è un piacere parlare con lei. Ma io, guardi, in realtà non è che avessi qualche domanda particolare da fare, soltanto che mi sono affacciato nel mondo della ristorazione da pochissimo tempo, rilevando un piccolo ristorante nel comune di Sabaudia, e praticamente niente, ogni volta che la sento, lei non ci crederà, ma mi viene l'acquolina in bocca, perché lei è così bravo ad illustrare insomma, il mangiare che c'è, il buon mangiare che c'è nella nostra bella Italia. Niente, è così, ero un po' curioso. Bene, a Sabaudia però diciamo che è un posto estivo, quindi più che invernale, insomma. No, appunto, infatti lo dicevo alla signorina gentilissima che mi ha risposto. Va bene. Non c'entra niente, però ero curioso di sapere appunto che cosa si mangia di buono. Grazie. In questo periodo così. Ora ascolti la trasmissione, vedrà che verrà fuori. Grazie, la ringrazio. Bene, allora ho parlato di vino e abbiamo con noi Costantino Scherer. Scherer è un po', come posso dire, il mito del vino in Valle d'Aosta, un grande viticoltore che ha portato veramente a grandi splendori la viticoltura della sua regione. Buongiorno Costantino. Buongiorno carissimo, come va? Bene, bene. Senta Costantino, ma la viticoltura di montagna è dura, vero? La viticoltura di montagna è dura perché innanzitutto è in forte pendenza e si sviluppa in areali marginali, si sviluppa con dei climi che sono piuttosto freddi, che però hanno una nota importante poi nell'espressività dei vini prodotti, e quindi è veramente dura, è veramente difficile. Si sviluppa anche in un ambito in cui l'antropizzazione è forte, e quindi c'è una concorrenza fra i terreni vitivinicoli e i terreni edificabili, quindi pensi un po' lei in che situazione ci troviamo. Comunque riusciamo a cavarcela bene. Senta Costantino, ma diciamo ai nostri radioascoltatori, perché molti non sono esperti, durante il periodo invernale, quando i vitigni sono coperti di neve, ne soffrono? No, assolutamente, anzi per noi la neve è una panacea, perché i nostri vigneti durante il periodo invernale si trovano ad affrontare delle temperature anche di meno 15, meno 20, quindi questa bella neve che è venuta quest'anno e che io in questo momento sto calpestando perché mi trovo alla Twill, è una coperta che ripara il vigneto, che non permette al gelo di penetrare verso le radici e quindi di creare dei danni che per Diana si sono già verificati in certe annate in cui, soprattutto in questi ultimi anni, la neve non è venuta. In questo momento non è così, perché la Valle d'Aosta è coperta di un manto nevoso formidabile e quindi anche i nostri vigneti ne trarranno giovamento. Il gastronauta. Continuiamo a sciare tra ristoranti e vini. Bene, continuiamo. Abbiamo perso il nostro radioascoltatore che era in linea. Comunque ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, continuiamo questa chiacchierata con il nostro produttore della Valle d'Aosta, Scherer. Volevo chiederle quali sono i vigneti e quindi i vini più adatti alla montagna della Valle d'Aosta. Innanzitutto bisogna dire che la Valle d'Aosta è ricchissima di varietà autoctone. La filossera, che ha mietuto vittime nell'ambito vinicolo fino all'Ottocento in tutta Europa, non è arrivata alle nostre altitudini. Lei pensi che noi nel comune di Morget, la Salle, abbiamo ancora dei vitigni che sono franco di piede. Il Prie Blanc, con il quale si produce il Blanc de Morget de la Salle, è ancora franco di piede, quindi non innestato su vitigno americano. E la disciplinare di produzione, pensi che Chicca, prevede che in questo areale produttivo non possano arrivare fare barbatelle, quindi essere messe a dimora delle barbatelle, quindi delle piante di vite su piede americano. Quindi si beve veramente una originalità del territorio che ha delle radici profonde, profonde nella cultura del territorio. Quindi... Questa è la Valle d'Aosta. Naturalmente poi la Valle d'Aosta è ricchissima di tantissime varietà per questo motivo autoctone, e io cito il Femin, cito il Petit Rouge, il Cornalin, il Maiolet, la Crovassa, la Bonda, e potrei andare avanti. È veramente una serra a cielo aperto di biodiversità. E quindi il gastronauta che vuole girare geograficamente il territorio, se viene in Valle d'Aosta si trova veramente delle chicche che hanno una originalità sicuramente grande. Beh, poi si trova un grandissimo Chardonnay che è il suo, quindi anche se non è... Io non volevo dirlo, per averlo citato. E questa è una cosa curiosa, perché una varietà, e qui è una mia idea profonda, questo è un concetto che io sviluppo, e lo Chardonnay è un vitigno internazionale. Qualcuno si chiede, ma come mai il vitigno internazionale Chardonnay, che è inflazionato in tutto il mondo, ha avuto dei risultati così in Valle d'Aosta? Certo, li ha avuti perché la pianta di vite si fa plasmare dal territorio, si adatta al territorio, sprofonda le radici realmente nel territorio e succhia dal territorio quel nettare che poi dà l'espressività organolettica del vino. E quindi lo Chardonnay nostro è uno Chardonnay che, a differenza dei Chardonnay di pianura e di collina, manifesta una mineralità incredibile, manifesta una salinità incredibile, e quindi tutto questo si riconduce a livello di sensazione gusto-olfattiva nella definizione di piacevolezza. E quindi è un vino di grande struttura, è un vino sapido, è un vino minerale e che piace al consumatore. E naturalmente questo vino, come lei ben sa, raccolto in questi ultimi 15 anni premi nazionali, sì, certo, e internazionali dal mondo intero. Ecco. Bene, io la ringrazio Costantino, grazie, a presto e un saluto alla Valle d'Aosta. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E ora andiamo dalla Valle d'Aosta, facciamo un salto in Alta Valbadia. Buongiorno a Michil Costa. Bagno duis dal Dolomites, ovviamente vi saluto in ladino. Ecco, immaginavo, siamo a Corvara. Allora, Michil, cosa si mangia in questo periodo? Cos'è che mangiano questi appassionati sciatori? C'è un piatto in particolare, dei piatti in particolare, oppure si mangia di tutto? Beh, con questo freddo che fa attualmente, con questa situazione invernale, davvero invernale, con la neve che è caduta finalmente dall'alto e non più dal basso, ovviamente i piatti non possono essere che sostanziosi, belli, sapidi, opulenti, quindi mangiano tanta carne. Cito per esempio mispighi, che è uno dei piatti forti, quindi il maialino, no? Il filetto di maialino, del quale maialino ovviamente controlliamo la filiera di produzione, quindi ci teniamo che i maialini vivano una vita degna di essere vissuta, sono creature viventi anche loro, ecco, e quindi vogliamo dare all'ospite anche così un pezzo di natura nel piatto. Ecco, e si mangiano molti i primi piatti? Sì, si mangiano tanti i primi piatti, ma si mangiano anche tanti secondi piatti, soprattutto tantissima selvaggina in questo momento, quindi ovviamente il camoscio, ovviamente il rechl, il capriolo, quindi, ma anche, devo dire, i ravioli delle cinque valli ladine con i formaggi qui delle zone, quindi non solo Valbadia, ma di tutte le valli ladine intorno al gruppo del Sella, sono molto amati. Ecco, rimani con noi, sentiamo un radioascoltatore, Giovanni, dalla provincia di Catanzaro. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, senta, innanzitutto complimenti alla sua trasmissione, ai suoi ospiti che sono sempre così esaurienti in tutte le trasmissioni che lei sta facendo. Io mi sto avvicinando alla sua trasmissione nel periodo natalizio, quando lei parlava di bollicine, e quindi mi sono un po' appassionato. Grazie. Le dico che non sono un grande bevitore, però volevo capire, visto che io chiamo dalla Calabria, che è notoriamente una terra di buoni vini, lei saprà senz'altro nella zona di Cirò, degli antichi greci, certo, diciamo che era il nettere degli dei. Ecco, volevo capire, nel panorama nazionale e internazionale, come sono quadrati i vini calabresi Guardi, negli ultimi 3-4 anni sono cresciuti in maniera notevole nella considerazione generale. Poi ci sono alcuni produttori che stanno sperimentando da anni, come Librandi, veramente ha fatto un lavoro di ricerca importante sui vitigni autoctoni, ma ormai ce ne sono veramente tanti. Ci sono alcuni vini da dessert che sono così usciti recentemente, che hanno avuto un grande successo anche dalla critica. Quindi io credo che è difficile che in Italia ci sia una regione che non viene considerata dal punto di vista vinicolo. Ognuno ha delle proprie peculiarità, chi ha avuto un boom anni fa e chi lo sta avendo. Diciamo che ci sono regioni che negli ultimi anni veramente sono cresciute e la Calabria sta crescendo veramente in maniera notevole. La ringrazio Giovanni. Io torno a Michele, perché Michele è un grande appassionato di vino, quindi ha una cantina straordinaria nel suo albergo La Perla. Michele, qual è il vino più gettonato in questo periodo? Beh, attualmente il più gettonato è sicuramente la Grain-Dunkel, quindi il vitigno autoctono qui del Sud Tirolo, vino abbastanza consistente con dei tannini non sempre molto morbidi ma molto presenti, un vino corpulento, e la stagione appunto così invita gli ospiti viaggiatori dell'anima a consumare dei vini locali ma anche abbastanza pieni, forti, corposi. Sentiamo Gianni da Milano, un altro radioascoltatore. Sì, io sono un consumatore. Non sono un gran bevitore di vino, però in qualche bottiglia l'acquisto. Evidenziamo una problematica da consumatore. Può chiudere la radio per cortesia, perché sennò rimbomba la sua telefonata? Sì, ecco. L'ho fatto, mi sente? Prego. Sì, la sento benissimo ora. E dicevo, una problematica che si evidenzia spesso quando andiamo al supermercato oppure in un'enologia è quella di vedere solamente prezzi, ma non avere la capacità o comunque la certezza di comprare un vino al giusto prezzo. Ovvero, io mi sono fissato 4 parametri che sono l'anno, secondo un linguaggio popolare più vecchio è, più buono è, l'altro è che sia un DOC, poi che sia imbottigliato all'origine, però tolti questi 3-4 parametri rimango poi alla fine di fronte a una vastità infinita, vini che vanno da 3 euro a 30 euro. Capisco anche che marche si facciano pagare come, che ne so, Bardolino piuttosto che Brunello eccetera, però rimango veramente in difficoltà a capire se sto spendendo la cifra giusta per il vino che sto prendendo. Guardi, io credo che questo problema, Gianni, esista per tutti i prodotti, a cominciare anche da quelli che non sono gastronomici. Non so, pensiamo ai vestiti, pensiamo al design, pensiamo anche agli oggetti elettronici. È difficile capire il rapporto qualità-prezzo, se è quello corretto o meno. Quindi siamo in una giungla. Io sono d'accordo con lei sul mondo dei vini, c'è di tutto ed è difficile sapersi orientare. Tra i parametri che lei ha dato, io metto in discussione l'annata, perché non è vero che l'annata più vecchia è sempre la migliore. Ci sono delle annate magari più vecchie che sono state annate disastrose, ci sono dei vini che maturano magari dopo 2 anni e altri dopo 5 anni, quindi non è facile questo sulla maturazione. Si hanno delle sorprese incredibili, molte volte uno apre una bottiglia di 20 anni pensando che ormai non ci sia più niente da fare e scopre un nettare straordinario, e quindi è difficile. Io l'annata non la metterei tra i parametri. Gli altri parametri che lei così ha nominato secondo me possono essere corretti. Bene, io la ringrazio. C'è un sms di un radioascoltatore che mi dice: suggerimento, tema invernale, Ice Wine Austria Canada, Paolo da Bolzano. Caro Paolo, l'Ice Wine è prodotto anche in Italia da due produttori, un piacentino e un piemontese, quindi perché andare a bere l'ice wine austriaco o canadese? Si può anche rimanere in Italia. Uno si chiama Croce, l'altro si chiama Baricchi. Ve li consiglio perché sono due vini davvero eccellenti. Poi ancora si mangia bene la selvaggina anche d'estate. Beh, sicuramente questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi continueremo a leggere qualche altro sms che ne sono arrivati tanti. Io ridò il numero verde 800 24 00 24. Nel frattempo, dalla Alta Valvadia di Michil Costa vado in Abruzzo, vado da un giovane chef che quest'anno veramente è assurto a grandi glorie, anche se lo era già per chi lo conosceva. Ha preso le 2 stelle Michelin, e Nico Romito di Rivisondoli. Buongiorno Romito, Reale di Rivisondoli Ristorante. Buongiorno Nico. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Nico, sei coperto dalla neve? Sì, sono coperto dalla neve, sta nevicando, il panorama è meraviglioso ed è freddissimo, infatti la settimana scorsa andava pure su tutti i giornali e Trebisonda ha raggiunto i meno 31 gradi. Ah beh, quindi la gente correva a mangiare, immagino. Sì, sì, la gente correva a mangiare e soprattutto con questo freddo noi abbiamo inserito nel menù piatti molto caldi a base di brodi, di minestre e di zuppe. Ce ne citi qualcuno? Sì, ad esempio abbiamo una minestra di cazzarielli, cazzarielli proprio una pasta tipica dell'altopiano di Trebisondoli, è fatta acqua e farina, sono dei dadini, quindi molto collosa in bocca, con dei ceci di Navelli piccolissimi e delle cime di rapa. Quindi diciamo che cucina soprattutto del territorio, perché hai citato tre prodotti che sono del tuo territorio. Sì, tre prodotti del territorio e poi che comunque noto sempre di più che chi viene a Reale, chi viene a Trebisondoli vuol mangiare i profumi nostri, i sapori nostri, e sicuramente io riesco a esprimermi meglio con i prodotti miei, perché sono nato, conosco i profumi e conosco anche molto meglio le cotture. Ecco, allora faccio una battuta mia, non voglio commenti perché non voglio compromettere nessuno, dico finalmente la Michelin comincia a riconoscere la cucina italiana, bene, chiusa la parentesi abbastanza polemica. Ma Nico, un altro piatto diciamo importante in questo momento di freddo? Sì, un altro piatto abbiamo... parlando di un primo piatto, abbiamo un raviolo ripieno di pecorino con una salsa di castagne arrosto e sta finendo, però ce l'ho ancora un po' di tartufo bianco. Ah, ecco, quindi ancora tartufo. Se, tartufo che arriva dai territori vicini? Tartufo di San Pietravellano, che è proprio al confine con l'Abruzzo, quindi, a Teleta, San Pietravellano. Quindi in Molise, diciamo mezzo molisano. Sì, insomma. Sì, mezzo molisano. Senti, sui vini, i vini abruzzesi negli ultimi anni, anche questi sono cresciuti notevolmente, Montepulciano è diventato un qualcosa di importante, sono richiesti dai turisti magari che arrivano da Roma, da altre parti? Sì, sì, sono molto richiesti, soprattutto io vedo nell'ultimo anno è cresciuto tanto la richiesta del Montepulciano. E poi la cosa che noto, il turista, il cliente che entra, è un cliente che comunque già va diretto su un'azienda, vuole conoscere quella tipologia di vino, quella perché l'ha letto da qualche parte, quindi è un cliente preparato. E poi l'Abruzzo soprattutto sta crescendo pure molto i vini di montagna della zona nostra. Ecco, prego, prego. E i vini quindi a alta quota. E quali sono? Abbiamo il grande storico Luigi Cataldi Madonna, poi abbiamo Valle Reale. Quindi sempre Montepulciano comunque? Tutti Montepulciano sì, 100% in purezza. C'è molta differenza tra tra i Montepulciano a bassa quota e questi ad alta quota? Sì, sì, le differenze ci sono, innanzitutto sia nella struttura del vino e sia nel profumo, perché soprattutto questi in alta montagna, proprio per gli shock termici, hanno dei profumi più intensi e sono molto più strutturati. Invece i vini di bassa quota comunque hanno delle differenze proprio dovute al clima e hanno dei profumi diversi rispetto a quelli di montagna. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tra la neve a parlare di vini, ma voglio leggere a Michil Costa e a Nico Romito una SMS interessante. Buongiorno, frequento la Valtellina e non c'è cultura del chilometro zero nella vendita del vino. Perché? Michil, bene, tu fai chilometro zero, sì, sicuramente dei prodotti, anche perché quando è d'inverno siete pieni di neve è difficile approvvigionarsi. Ma io penso che questo qui non è solamente una questione di etica, ma è anche il futuro del turismo. Il turismo non potrà che essere biodinamico sempre più, e di conseguenza i prodotti devono assolutamente essere locali, ove possibile biologici, e ove ovviamente non si può fare meno, appoggiarsi a un fair trade, quindi a un commercio ecosolidale con il terzo mondo. A tutto ciò va aggiunto ovviamente un controllo assoluto della filiera di produzione, cioè noi vogliamo assolutamente sapere come già dicevo poc'anzi, come vengono allevati questi animali che fanno parte di questo mondo come noi. Bene, grazie Michiel Costa e buona stagione, a presto. Nico, da Nico volevo sapere un dessert. Allora, proprio questi giorni abbiamo un dessert fatto con del mosto d'uva, del cacao e della riquilizia. Allora, quindi lo serviamo in un piatto fondo, alla base del piatto facciamo una salsa col mosto d'uva, oppure, perché nelle tradizioni abruzzesi e perché proprio piace a me, c'era proprio il grande uso del mosso nel dolce, soprattutto nella pasticceria secca. Poi mettiamo una cialda di zucchero e liquirizia, quindi quando andiamo a mangiare sentiamo questa freschezza di liquirizia, un gelato fatto con cacao e acqua, quindi pulitissimo, molto, molto netto, e sopra mettiamo una cialda di castagne. Bene! Buon appetito per tutto il resto della stagione, Nico, e complimenti. Grazie, ciao, a presto, presto. Sentiamo Giuseppe da Palermo. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un appassionato di vini e soprattutto dei vini piemontesi, in quanto nella mia giovinezza sono stato a Torino e quindi da Nebbiolo, Barolo, chiaramente come lei sa, Galtinare, eccetera, eccetera, Barbaresco. Ora, desidero sapere se il Barolo, quindi il Nebbiolo, chiaramente il vitigno, in Sicilia può attecchire e può produrre un ottimo vino come il Barolo che si produce anche in Piemonte, diciamo, ecco questo. Giuseppe, guardi, questo qui bisognerebbe vedere territorio, terreno per terreno, diciamo che io non sono in grado di dirgli sì o no. Le posso solo dire che il Nebbiolo ha attecchito benissimo in Sardegna, per esempio, e quindi sono nati, cioè nato nella Gallura, ci sono dei nebbioli davvero diciamo interessanti, a cominciare quello della cantina sociale di Tempio Pausania, quindi non mi risulta che in Sicilia siano stati fatti degli esperimenti, però in Sardegna sono stati fatti con dei buoni risultati. Bene, la ringrazio, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo anche Andrea da Milano. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Niente, complimenti per la trasmissione. Poi volevo capire il suo pensiero rispetto ai vini, le spremute d'uva che ogni tanto l'amico ti porta a casa, fatto dallo zio piuttosto che dal cugino, e invece i vini di qualità che sono, credo, tutt'altra cosa, perché mi sembra che si crei una certa confusione tra queste due. Cioè lei dice tra vino, chiamiamolo così, del genuino. contadino, beh, esatto. Beh, guardi, genuino secondo me è una parola, è un aggettivo che dice poco, dice niente, è difficile dire un vino genuino, un altro non è genuino. Ma guardi, abbiamo un'enologa in collegamento con noi, un'enologa trentina, che saluto, Sabrina Dorigoni, buongiorno Sabrina. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti quanti voi. Lei ha sentito questa differenza, cioè si può usare la parola genuino nel vino? Ahimè, spessissimo genuino viene cambiato con tradizione e casa. Direi che però nella legislazione italiana che riguarda il vino, la parola genuino è una cosa assolutamente da non mettere in discussione. Sono talmente tante, talmente severe le norme che regolano l'attività di noi enologi, che dire genuino ad un vino di casa, direi che a volte è meglio pensare che il vino genuino, quello veramente genuino, è quello prodotto nelle cantine professionali, dove garantiamo un controllo igienico, dove controlliamo la matrice batterica, dove viene controllato non solo da noi ma anche da istituti preposti che la qualità sia assolutamente eccellente nel rispetto delle condizioni di genuinità, chiamiamole. Sabrina, rimanga con noi perché abbiamo altri radioascoltatori e tutti oggi vogliono intervenire sul vino, però mi fa molto piacere leggere un sms che arriva da Salemi, paese dove sono assessore al gusto e al disgusto, quindi sicuramente gli do un diritto di precedenza. Dice: noi agricoltori in Sicilia produciamo uva non vino, per questo siamo sul lastrico, i vini li producono altri. Bah, io non direi, caro Nino non sia così pessimista, la Sicilia ha fatto dei passi talmente in avanti che oggi è una delle regioni diciamo tra le prime in Italia per produzione di vino e anche di vino di grandissima qualità, quindi secondo me il suo pensiero veramente non è molto corretto. Bene, sentiamo Luigi da Ferrara. Buongiorno Luigi. Buongiorno, mi chiamo Luigi, sto chiamando da Ferrara. Sì. Dunque, non è una terra di vini questa, io mi propongo come consumatore, consumatore in cui i vini vengono acquistati nei supermercati, di cui siamo molto ricchi qui nella zona di Ferrara. E purtroppo noto che nei supermercati ci sono una varietà di vini assolutamente eccezionale, però scendendo ancora la qualità si fa presto a capirla, quindi dovrebbe valutarsi sul prezzo. Però perché non esiste per i consumatori, non molto approfonditi in materia, un elenco delle cantine, perché è le cantine che fanno la differenza dei vini, non sono i nomi dei vini e il prezzo dei vini, è la qualità delle cantine. E nel secondo luogo, perché sulle etichette dei vini non è espresso la componentistica dei vini, anche questo lo chiamo a un richiamo a livello europeo, perché non c'è scritto cosa c'è dentro al vino? Sì, guardi, questa è una polemica che è già successa parecchie volte, ho fatto ancora una trasmissione anni fa. Comunque poi magari riprenderemo questo argomento, caro Luigi, ma lei dice un elenco delle cantine. Chi dovrebbe fare questo elenco delle cantine? Mi scusi. Chi vende i vini? Chi vende nei grandi supermercati vende i vini. Quindi abbiamo centinaia di nomi di cantine, famosi e meno famosi, ma non c'è una graduatoria, perché qui la qualità la fa le cantine. E la graduatoria la dovrebbe dare chi? Il venditore? La graduatoria delle qualità delle cantine, cioè sì, ma appunto questa votazione, bontà, quindi, questa no, votazione, perché è un basso prezzo, una cantina scadente, oppure un vino scadente, o un alto prezzo perché è una cantina importante. Il consumatore non può sapere queste Mi scusi cose. Luigi, la ma differenza la fa le cantine, sì, i produci. Sì, il problema è chi dà i voti alle cantine, chi è il supermercato, chi è, cioè il problema è sempre questo, sono come le guide dei vini che decidono le valutazioni delle bottiglie, quindi siamo allo stesso livello, è difficile, non c'è un qualcosa di oggettivo, di sovra, diciamo, commerciale che sia in grado di dare una valutazione alle cantine. Forse quello che lei ha ragione è che dovrebbero essere così date più informazioni sulla cantina di quel vino, su questo posso darle ragione. Comunque torniamo a Mirko, un altro radioascoltatore, Mirko da Ferrara, buongiorno Mirko. Ah, buongiorno, approfitto dell'occasione proprio perché ha telefonato il signor Luigi e anche per l'affermazione della collega Dorigoni, visto che anch'io sono un produttore di vino. Sicuramente genuinità è sinonimo di rispetto delle regole. C'è un altro discorso, il discorso delle manipolazioni del prodotto, mi intenda, manipolazione in termini di lavoro, di conservabilità, quindi sicuramente Luigi pone un problema interessante, che è quello di andare a scoprire la cantina dove si acquista direttamente il prodotto. Il prodotto che è allo supermercato è inevitabilmente maggiormente manipolato. No, beh, questo io non sarei così sicuro, guardi, che ci sono certe catene di distribuzione che hanno dei vini di grandi produttori, quindi non è sempre manipolato, cioè non esageriamo, ci sono vini sicuramente sotto i 2 euro, 1 euro, allora qualche dubbio ci può essere, ma ci sono anche grandi vini, quindi non farei di tutta un'erba un fascio, Mirko. Bene, torniamo a Sabrina Dorigoni, perché da lei volevo un po' parlare vini di montagna, ma è giusta questa definizione? Vini di montagna? Ma anche qui io, come sempre succede, sono sempre abbastanza controcorrente. Per me vino di montagna, sì, forse è una definizione che può essere calzante, ma mi sembra estremamente riduttiva. I vini di montagna in realtà, a mio avviso, sono un'altra cosa, sono vini di latitudine, sono vini di clima soprattutto, vini di quota. Definirli di montagna, i vini del Trentino, regione di montagna, le nostre quote vanno dai 70 metri sul livello del mare ai 1000 metri, eppure siamo considerati una regione di montagna. Quindi chiaramente dobbiamo distinguere a quel punto, diciamo vini della latitudine, se ad esempio pensiamo che Alba è alla stessa latitudine di Bordeaux, i vini sono completamente differenti. Se però noi consideriamo l'effetto clima e l'effetto latitudine, allora possiamo parlare di vini creati in condizioni di freddi particolari, forse, o di caldi differenti. Ecco, continua a rimanere con noi, sentiamo Lele da Milano, buongiorno Lele. Buongiorno, volevo fare una domanda all'enologa, visto che sono un amante dei vini trentini e soprattutto del Gewürztraminer artesino. Amo questo vino soprattutto per i profumi, per il bouquet di fiori, eccetera. Però vedo che è premiato dagli enologi, alternativamente, un anno dopo l'altro, una volta un vino che ha forte bouquet di fiori, una volta viene invece più premiata la struttura e meno il bouquet. Volevo capire a suo avviso quale fosse il fattore più importante per giudicare la bontà di un Gewürztraminer. Può rispondere Sabrina? Sicuramente la componente aromatica, questo è in dubbio. Poi, per il mio gusto, per il mio palato, mi piace il Traminer quando è molto rotondo, molto grasso, pieno, denso. quasi uno sciroppo di Traminer, più che un Traminer di quelli veloci. A questo punto mi sento di dire che preferisco i Traminer dell'Alto Adige a quelli della mia terra, purtroppo, che è il Trentino. Ecco, ma come mai il Trentino è così vocato agli spumanti? Il Trentino è vocato agli spumanti perché ha una posizione geografica ideale. Ha l'Adige che lo attraversa in direzione nord-sud, quindi crea una condizione di clima ventilato, crea una piccola condizione di umidità, quell'umidità che serve a ripararci dagli stress idrici. Abbiamo delle quote collinari interessantissime intorno ai 700-800 metri dove non c'è ristagno di umidità, dove c'è ventilazione, c'è l'ora del Garda, una matrice morenica dei terreni, tutti fattori che concorrono alla produzione ideale del Pinot Nero e dello Chardonnay da dedicare ad una base spumante. Il gastronauta. Riprendiamo a parlare di neve, di cibo, di vini. Sentiamo una radioascoltatrice, Giovanna da Roma. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Io volevo soltanto permettermi di fare un chiarimento e di dare un suggerimento ai suoi ascoltatori. Per quanto riguarda il chiarimento, secondo me il problema dell'annata è relativo alla differenza fra vini bianchi e vini rossi. I vini bianchi hanno una vita molto più breve, anche quelli in barrique che ce l'hanno più lunga è sempre limitata a un paio d'anni. Adesso tra febbraio e marzo andrà in commercio l'annata 2008, sarà buona per tutto il 2008, per parte del 2009, e poi invece quelli in barrique possono resistere di più perché sono più strutturati, ma in genere il vino bianco ha un profumo che via via si perde dopo un certo periodo in bottiglia. Guardi che secondo me questa può essere una regola generale, ma ci sono molte eccezioni. Il vino ha sempre delle sorprese. Io sul discorso delle annate non generalizzerei mai, perché ci sono vini a lunghissima gittata che sono anche bianchi e che non sono in barrique. Quindi secondo me è un discorso molto, molto variabile, non si può fare una regola generale, perché secondo me le eccezioni sono troppe. D'accordo che i vini rossi ovviamente durano di più. Io la devo interrompere perché ho tante telefonate, abbiamo capito il suo pensiero. Lei dice, bene, vini bianchi comprateli più giovani, quelli rossi potete vedere anche annate più lunghe nel periodo. Bene, grazie Giovanna, sentiamo Enrico dalla provincia di Trento. Buongiorno Enrico. Buongiorno, volevo intervenire, ha ragione lei, i vini bianchi possono essere anche di lunga, cioè praticamente possono durare a lungo. Sta potando del Chardonnay a 600 metri e devo dire che mi dà ottime soddisfazioni. Sono un contadino privato e volevo dare la mia... A quanti metri ha i vigneti? A 600 metri, sto portando adesso il Chardonnay. Benissimo, io la ringrazio di queste sue testimonianze Enrico, grazie. Voglio leggere un sms, voglio chiedere a Sabrina Dorigoni di dare una risposta, perché è un quesito che viene spesso posto. Perché il vino del contadino diventa subito aceto e quello di marca stenta a diventarlo? Beh, di marca, diciamo quello di cantina, ecco, diciamo così. Sabrina? Ma perché esistono una serie di lavorazioni nel vino come il controllo dell'acidità volatile che da noi enologi viene chiaramente fatto in ogni momento, dall'inizio della fermentazione fino al momento dell'imbottigliamento, il controllo, dicevo, microbiologico. Se il vino diventa aceto è perché ci sono dei batteri acetici all'interno del vino. Batteri acetici significa scarsa pulizia di cantina, con questo non sto dicendo cantina sporca. Dico determinate regole che è difficile osservare all'interno di una cantina, chiamiamola casalinga. Controlli fatti sulle filtrazioni dei vini, ad esempio. Sono tutte cose che è impossibile fare in casa. Bene, io la ringrazio, grazie della sua partecipazione e buona continuazione dell'attività. Bene, e ora andiamo da due chef importanti, andiamo in Val Badia, in Alta Val Badia, e poi andiamo nell'Alto Veneto Dolomitico. Buongiorno Norbert Niederkofler. Buongiorno a tutti. Buongiorno Norbert. Allora, in questo periodo di grande freddo, di grande neve, in cui siete veramente invasi, Ma si può mangiare magari sostenuto, robusto, oppure la tua linea è sempre una linea molto curata, molto particolare, magari anche a base di pesce? A noi abbiamo innanzitutto due ristoranti all'Hotel Rosalpina, per quello già lì facciamo delle cose molto diverse, però ovviamente nella zona che siamo abbiamo anche un po' una cucina molto rustica, però lavorata in una maniera un po', cioè, più leggera, più appetibile e così. Però ovviamente ci sono anche tanti clienti che richiedono pesce, per quello si fa anche tanto pesce. Ecco, è facile avere, cioè, l'approvvigionamento del pesce durante questo periodo, cioè magari quando si è bloccati dalla neve o d'altro, ci sono grossi problemi? Ma no, quest'anno c'era un po' di problema prima di Natale, cioè proprio all'inizio di dicembre, che ha nevicato veramente tantissimo, perché abbiamo avuto la fortuna di avere 1,5 metri di neve in una settimana, per quello questo è già una grande fortuna. Lì fai un po' fatica, però se no siamo forniti molto molto bene e non c'è nessun problema. Ecco, rimani con noi, ora andiamo, appunto, dicevo, verso settore dolomitico, andiamo da Riccardo De Prade al ristorante Dolada Plois in Pieve dal Pago, scusa. E buongiorno Riccardo. Ciao Davide. Riccardo, qual è il tuo piatto ultimo? Diciamo, tu sei sempre un grande creativo, hai creato qualcosa per quest'inverno? Sì, abbiamo creato polenta e salame. Bene, benissimo. Come al solito tu sei sempre spiritoso. E va. No, non sono spiritoso, ma proprio abbiamo macellato diversi suini di casa qua proprio 7 giorni fa e si comincia proprio a servire queste cose, e questo è quello che la gente vuole. Magari un po' meno, perché di una volta, un po' meno quantità, ma questi sapori di una volta sono proprio stanno tornando a mille. Senti Riccardo, qual è il segreto della polenta? Ma io non sono tanto bravo a fare la polenta, mio padre infatti mi sgrida sempre, ma pian pianino sto imparando. Il segreto è un tegame di rame, assolutamente, è mescolarla continuamente e cuocerla almeno un'ora, poi dipende dal tipo di farina. E un segreto che sembra una cosa stupida, però un po' quasi deve un po' bruciacchiare sotto, è inevitabile che si bruciacchi, e quel leggerissimo bruciacchiato conferisce il sapore che è quello proprio della polenta di una volta. Bene, rimani con noi anche tu, sentiamo Tino da Pescara, buongiorno Tino. Buongiorno, complimenti per la trasmissione che seguo sempre con molta passione. La ringrazio. Io volevo solo precisare alcune cose, ad esempio per quanto riguarda la differenza tra il vino di casa, io sono un amante di vino dagli anni 80, la differenza tra il vino che si fa in casa, diciamo così, o nelle cantine private, quelle casalinghe, e la differenza delle grandi cantine, la prima cosa, concordo con quello che ha detto l'enologa, però ci sono appunto le trasformazioni, le lavorazioni, in cantina, nella cantina vera, quella diciamo para-industriale, la fermentazione dura 40 giorni e viene regolata, mentre in una cantina privata questo non è possibile farla, la fermentazione va da sé, può durare 3 giorni, una settimana o 10 giorni. Poi si parte dalla pigiatura, io ho visto che ad esempio nelle grandi cantine fanno una pigiatura soft, quindi l'acero, diciamo così, il chicco viene spremuto in minima parte, si prende solo il cuore, invece quando uno vede fare il vino in casa, la spremitura è una spremitura molto molto forte, quindi tutte queste piccole cose, poi al di là di quello che ha detto poi l'enologo. Evidente. Un'ultima cosa che voglio specificare. Veloce, che stiamo sulla finale, dica. Sì, ecco, solo questo, per quanto riguarda i vini in supermercato, ci sono delle cantine che producono e imbottigliano, tanti sono solo imbottigliatori. Certo, esatto. La differenza è evidente. Grazie a Tino da Pescara, sentiamo Achille da Treviso, buongiorno Achille. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono un po' emozionato perché io in questi giorni di sabato, che mi sposto da una parte all'altra, la sento sempre volentieri. Volevo porle due piccole domande, una piccola osservazione. Facciamone una sola, dunque, facciamo la domanda perché poi devo chiudere. Allora, guardi, io abito nella provincia di Treviso, Piedi del Montello, sì. dove è una zona al Prosecco. Così, per il vino Prosecco, certo. più di tutto. Ora sta verificando nella nostra zona che con tutte le difficoltà che noi abbiamo e moltissimi vini buonissimi di tutto, come sì, in tutta l'Italia. Sì. E qui vorrei arrivare un pochino al dunque, l'ultimo dell'anno, quella della Rai 1 non è stata capace a fermare quella che ha detto solo vino Franciacorta. A me volevo dire non solo vino Franciacorta, ma anche Prosecco. Bene. Sì, ma non solo, anche champagne. Bene. Cioè, abbiamo moltissimi vini che poi non sono conosciuti. Bene, grazie Achille, abbiamo capito la sua difesa del Prosecco, giustamente. Grazie, perché pochi minuti. Io volevo chiedere a Norbert velocissimamente un dolce, un dessert. Cioè, stiamo facendo attualmente un dolce, un mousse di carote con un po' di melograno e una cialda di cioccolato. Questo qui è un dolce che si sposa molto bene, poi si serve anche magari con un tortino di carote abbinato. Bene, grazie Norbert e buona continuazione dell'attività di questo inverno così nevoso. Peccato che Riccardo è caduto alla comunicazione, volevo chiedere anche a lui un dessert. Bene, glielo chiederemo in un altro momento. Abbiamo capito comunque di un rilancio di piatti tradizionali, perché Riccardo è un grande creativo e se ripresenta polenta e salame vuol dire che il consumatore in questo momento sta chiedendo questi piatti. Bene, io ringrazio sia gli ospiti che gli intervenuti, i radioascoltatori, vi do appuntamento tutti i giorni alle 18 con la pillola appunto del gastronauta. Buon weekend dal vostro Davide Paolini.